Nel 1986, con il suo romanzo di esordio, Canto di Kalì, ha vinto il World Fantasy Award, cioè il premio per il miglior romanzo fantasy. Nel 1994, 4 anni dopo, ha fatto il pieno con ben 2 romanzi, Hyperion, che ha vinto il premio Hugo e il premio Nebula, e Carrion Comfort, che ha vinto il British Fantasy Award, il Bram Stoker Award e il Locus Award per il miglior romanzo dell'horror. Stiamo parlando di Dan Simmons, che è la vera rivelazione della fine degli anni 80, inizio anni 90, e di cui finalmente è giunto in Italia appunto Hyperion, uno dei più interessanti romanzi di fantascienza di questi anni. Un'opera dalla concezione grandiosa che verrà seguita, vi posso assicurare subito, a non so quanto breve distanza dal suo seguito, che ha scritto nel 1990, ha pubblicato nel 1990 negli USA Simmons, cioè La caduta di Hyperion. La casa editrice che lo pubblica è Interno Giallo. La concezione di questo libro l'ha spiegata lo stesso appunto Simmons in diverse interviste, deriva niente po' di meno che dal poeta inglese John Keats, grande poeta romantico inglese della prima metà dell'Ottocento, il quale scrisse appunto 2 brevi poemi incompiuti, 2 brevi frammenti di poemi epici incompiuti, chiamati appunto anch'essi Hyperion e The Fall of Hyperion, La caduta di Hyperion. Hyperion era il nome di un antico titano, di uno dei titani sconfitti da Zeus, cioè da Giove, nella sua lotta mitologica, e Keats era interessato a questo tema, cioè di una nuova razza di dei che soppianta una razza di dei più antica. Ebbene, questa è anche la grande preoccupazione di Simmons, scrittore, come abbiamo visto, non solo di fantascienza ma anche di fantasy e di horror, il quale però quando si dedica a questi grandi affreschi fantascientifici, naturalmente rimpiazza gli antichi dei greci, gli antichi dei della mitologia, con il loro equivalente moderno, quindi con le grandi organizzazioni galattiche, con le intelligenze artificiali, e introduce un essere misteriosissimo che domina su questo libro e dominerà anche nel successivo, che è lo Shrike, che campeggia anche sulla copertina dell'edizione italiana di questo libro, cioè un essere che non si capisce bene se sia umano o se sia metallico, che si aggira in questo pianeta di Hyperion, in una zona che si chiama le Tombe del Tempo, e uccide quasi invariabilmente tutti i pellegrini che si recano a fare visita a questa strana zona, il che non ha impedito a molta gente per tutte le galassie, per tutti i mondi conosciuti, di instaurare un vero e proprio culto per questo strano essere semidivino. Bene, quindi il punto focale di Hyperion sono queste tombe del tempo, una strana zona nella quale il tempo sembra, almeno apparentemente, scorrere a ritroso, questa misteriosa divinità uomo, macchina, organico, inorganico, lo Shrike. Qual è lo sfondo? Lo sfondo è quello di una confederazione di pianeti, la vecchia Terra è ormai scomparsa, chiamata l'egemonia dell'uomo, e una serie invece di, per così dire, pianeti che non sono né colonie né veri e propri mondi della egemonia, fra i quali sta appunto Hyperion, e una invece terribile minaccia proveniente dall'esterno, che sono i cosiddetti Outers, i discendenti di viaggiatori spaziali perduti fra le stelle, che come i barbari nell'antico impero romano premono alle porte della egemonia con delle terrificanti tecnologie belliche e una capacità immensa di distruzione. Quindi questo è lo sfondo. La storia qual è? Che cosa si racconta in questo libro Hyperion? Si racconta la storia di 6 pellegrini, di 6 personaggi, i quali vengono in un qualche modo misterioso e che non sarà del tutto chiaro neanche alla fine del libro, bisognerà attendere il libro successivo per conoscerlo meglio, vengono scelti dalla Chiesa, dai rappresentanti ufficiali del culto appunto dello Shrike, per compiere questo pellegrinaggio alle tombe del tempo. Perché proprio questi sono stati scelti? Perché tutti loro hanno avuto nel loro passato sofferto delle incredibili sofferenze, tutti in appunto relazione o a Hyperion o alle tombe del tempo o allo Shrike, e ognuno di questi pellegrini in una narrazione non fa che narrare la sua storia, ciò che lo ha condotto lì, durante la loro marcia, durante la marcia di avvicinamento all'obiettivo del loro pellegrinaggio. Si è fatto il nome di Chofar, dell'autore medievale inglese dei Canterbury Tales, dei racconti di Canterbury, che è un po' il boccaccio inglese per questo stile, per questo modo di fare, ma si potrebbero fare molti altri nomi della letteratura classica, perché Simmons congiunge una indubbia capacità di attirare, di attrarre, di tenere avvinghiato il lettore con l'originalità delle sue idee, e ad una precisione stilistica, ad una duttilità stilistica che è veramente alta e che forse si vedrà meglio ancora nel secondo volume della scaduta di Hyperion. È quindi un libro che credo sia in qualche modo un imprescindibile dovere leggere, insomma, perché è appunto il libro che ha sconvolto, che ha rimodellato tutta la fantascienza americana degli ultimi anni. Ci troverete dentro un po' di Asimov, un po' di Herbert, un po' di cyberpunk, varie cose, vari ingredienti trattati tutti quanti con estrema maestria. Quindi è un libro che vi consiglio, Dan Simmons, Hyperion, Interno Giallo, le edizioni, 422 le pagine, 25.000 le lire, il costo è un po' alto, ma forse per 442 pagine di questa splendida edizione e di un bello e interessante romanzo ne vale forse la pena.